Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Un caro saluto a te Luca e agli amici di Radio 24. Dalla Suburra, si dice con due B. Oscar, boom. Diciamo che la parte, diciamo, pensante della curva sicuramente non è su quella linea. A me ricorda la polenta uncia invece la tua trasmissione. Ma è quella tipica comasca, annegata proprio nel burro. E allarme burro. Parigi, cosa drammatica. Sono aumentati i croissant di 10 centesimi. Secondo lei è giusto che su 12.000 persone per 100 persone si chiude la curva e lei che ha pagato l'abbonamento non possa andare allo stadio? Io sono un abbonato, fra l'altro, della Roma. Perché se le robe di Roma per me è politica estera. I giovani hanno solo un aspetto fenomenico, quello che diceva Gatti, di apparire, fai noi, e non aspetto rumenico della presidente superstrano. Però la durezza ci vuole, la durezza ci vuole, i fiori non bastano. Beh, l'ignoranza genera mostri. Mio Dio, e aggiungo mio Dio, pur essendo abbastanza agnostico, aggiungo mio Dio. Comunque non esiste la graduatoria delle forme diverse di razzismo, fanno tutte schifo, scusate. Tutte le istigazioni dell'odio fanno schifo e noi, cani e gatti, con i nostri limiti e i nostri difetti, ci troviamo domani. Viva la pensione più tardi! Anche basta. Popolo dei già svegli, buongiorno! Una grande giornata di passioni ancora una volta davanti a noi, e una giornata segnata dal nome di Anna Franca ancora una volta, che si è impastato con una giornata di campionato, curve, letture, di pagine di diario di fronte al popolo degli stadi, regalo di libri ai bambini mascotte. È una grande polemica che vogliamo affrontare, perché c'è la celebrazione ma c'è anche la retorica, e poi lo shock per le parole di Lotito. Pensate, usciva da questi studi e trovavamo un audio del Messaggero in cui lui in aereo dice: andiamo a fare sta sceneggiata, è sulle pagine di tutti i giornali, è lo spettacolo della rappresentazione, oppure, come dire, un incidente di percorso. E poi ovviamente c'è la finanziaria, il voto sulle fiducie al Senato, l'intervento di Napolitano. Io sono qui a cantare tutto questo con Andrea Purgatori, buongiorno! Buongiorno Luca, come va? Giornalista che ci illumina, qual è la cosa che ti ha colpito di più, diciamo, nella storia di Anna Frank, il diario, Lotito, i fiori, la comunità ebraica? Cosa ti ha colpito? Ma sì, mi ha colpito questo gesto che chiaramente, secondo me, è così, diciamo, formale, privo di sostanza, di andare a portare questa corona di fiori alla sinagoga, tanto per far vedere qualcosa, sapendo perfettamente che questa storia è una storia che va avanti da anni, non è una storia che è nata ieri, è una storia che va avanti da anni, sulla quale non è stato posto alcun rimedio. Attenzione, per la Lazio c'è Anna Frank, per la Juventus c'è la Camorra. Non si salva per nessuno, tutti c'è qualcosa, ahimè. È vero, per tutti c'è qualcosa, è trasversale. E soprattutto questa cosa, secondo me, molto ipocrita, di andare con le magliette, regalare il libro di Anna Frank. Ma basta, ma chiudiamo la curva, prendiamo dei provvedimenti come si deve. C'erano anche in Inghilterra, avevano questo problema degli hooligans, lì era un problema di violenza e basta. L'hanno risolto alla fine, l'hanno risolto. C'è la gente che guarda la partita a un metro dai giocatori e non si sogna neanche per l'anticamera del cervello di tirare fuori delle questioni spaventose come l'olocausto piuttosto che altro, per fare tifo o tifare contro la squadra avversaria. Allora ne parliamo fra poco, ma prima entriamo dentro il fritto misto che è lì in ebollizione. Visto questo, che siamo a Venezia, voglio dire che io Gentiloni guardo davvero con interesse, con rispetto, con disponibilità a questa discussione che si è aperta in seguito anche ai referendum sul tema dell'autonomia, della possibilità su alcune materie di fare dei passi in avanti sul terreno delle autonomie, su alcune funzioni da parte delle regioni. Io guardo con interesse, rispetto e disponibilità, mentre Rugge, Gallagher ci dicono: ma sì, Rocchettoni bene, ma la musica nuova è appena uscito questo disco. L'ex co-leader degli Oasis si è dato a un disco molto elettrico in cui una voce un po' lennoniana, e noi entriamo dentro il Rosatellum con l'insulto del senatore 5 Stelle in aula. La posta in gioco è molto alta, troppo alta. Non abbiamo paura di sparire noi, ma di avere un Parlamento con le solite facce di cazzo e un popolo che non rappresenta... Senatore Puglia, non può... Nessuno! Si è tolta dal verbale questa espressione. Mi scusi, signor Presidente. Bello, Sergio Puglia, senatore a 5 Stelle, vedete, si è lasciato un po' andare, ed è bello il controcanto fra Grasso, quello di faccio i e Grasso, senatore, che dici Andrea, è battaglia vera in Senato? Ma insomma sì, non è mica la prima volta che ci sono questi scontri in aula. Certo, questa legge elettorale alla fine, dopo che ne stiamo parlando da quanti anni, cioè è uscito fuori una specie di alien una specie di alien e francamente insomma al di là anche qui del bavaglio, degli occhi bendati, delle facce di qualcosa, insomma l'idea che non andiamo a votare, non possiamo esprimere una preferenza come si deve fino in fondo al 100%, è francamente molto ma molto triste. Come sai, si è arrabbiato Giorgio Napolitano, un ex presidente della Repubblica che si solleva in aula e dice: forti pressioni su Gentiloni per mettere la fiducia. E indovinate di chi? È singolare e sommamente improprio. Ho trovato il far pesare sul Presidente del Consiglio la responsabilità di una fiducia che garantisse la intangibilità della proposta in quanto condivisa da un gran numero di partiti. Il Presidente Gentiloni, sottoposto a forti pressioni, ha dovuto aderire, e me ne rammarico, a quella convergente richiesta proveniente peraltro da quanti avrebbero potuto chiedere il ricorso alla fiducia non già su tutte le parti sostanziali della legge, ma su punti considerati determinanti, cosa che non ebbero la lucidità e il coraggio di fare. Attenzione, c'è la concorrenza ovviamente, ma Gentiloni avrebbe dovuto o non ha potuto resistere? Questo è il dilemma. Andiamo invece all'Otito, quella frase famosa tirata fuori da un giornalista del Messaggero. Il vice rabbino ci sarà? Non valgono un cazzo questi, hai capito come stanno? Va detto anche che, malgrado questo audio un po' confuso accompagnato da un video, l'Odito ha smentito: non parlavo esattamente di quello. E ma di cosa allora? Sentite Pirozzi candidarmi: non ci penso per niente. Io, pensate un po', se ero talmente sprovveduto di annunciare una candidatura che al momento non ci penso per niente quando faccio la presentazione del libro. Al momento non ci penso per niente, il governatore del Lazio non sarà il sindaco di Amatrice? Chissà, vedremo. Ma andiamo a Salvini, duro sui violenti in curva. Che sono degli imbecilli, ma come diceva il sindaco, non rappresentano i veri tifosi e i veri ultra, rappresentano una minoranza di imbecilli che dovrebbe essere rieducata e dovrebbe studiare la storia. No, chiudere le curve è la risposta più idiota. Bisognerebbe impedire a questi deficienti di guardare una partita di calcio per i prossimi 20 anni, lasciando che gli altri tifosi e gli altri ultra che sono andati a scavare le macerie da Matrice possano tifare le loro squadre. Questi andrebbero internati. Io su questo sono d'accordo con lui, sai, perché bisogna chiudere le curve a tutti? Chiudiamole ai violenti, stanghiamo loro. Sì, sì, figuriamoci. Accidenti è una cosa che non riusciamo a risolvere, non se ne risolve una in questo paese, dalla legge elettorale a questi imbecilli davvero che stanno nelle curve, non si riesce a risolvere un problema. Certo, Salvini pure lui, dico, c'ha una storia, lui, insomma, la Lega c'ha una storia non da poco alle spalle. Però non insomma, paragoniamolo a quelli che mettono gli adesivi antisemiti. No, assolutamente, però voglio dire, è riapparso Beppe Grillo in piazza ieri, c'erano le proteste contro Rosatellum e lui ha benedetto i manifestanti. Cospirate, quando avete delle persone da convincere di venire dentro il movimento, ditelo sottovoce, vieni dentro il movimento, dobbiamo difenderci così. Adesso vi do un po' d'acqua, sì, grazie di tutto, grazie per tutto quello che avete fatto e che farete, va bene? Noi ci siamo, noi adesso andremo in Sicilia. Che la minchia sia con voi! Che la minchia sia con voi è un bello slogan per il prossimo millennio. Di Battista interviene sul costo dei pannolini. Ma adesso il problema mio non è il cellulare, chiaramente, però i pannolini, ma non perché ho imparato a cambiarli, però non, se, mi prenderanno in giro per questa cosa. Però io ho speso in un mese 110 euro i pannolini. Ti costano molto. Secondo me un paese civile e il Ministero della Salute dovrebbe passare, perché io ho uno stipendio parlamentare ipertagliato, ma guadagno più di 3.000 euro al mese, più dei benefit, certo, me lo posso permettere. Ci sono molte persone che non sono. Ma un ragazzo che guadagna 1.400 euro e ha magari un mutuo da pagare e la compagna non lavora, ma come fa? Certo che la paternità di Battista sta diventando un'epifania, un'avventura esistenziale, bella, perché lui la racconta così ed è bello, è riuscito a incarnare questo ruolo. Sì, guarda, non lo so, a me sembra molto naif questo atteggiamento, ma mica è soltanto di Battista, Cioè questo è un paese dove c'è quello che fa per la prima volta un figlio che scopre il problema dei pannolini, quell'altro ne scopre un'altra di cosa. Cioè, francamente il mix che avete fatto da Grillo a Prima eccetera, cioè, sembra una cosa da spettacolo. Cioè, ma è un paese serio questo? Io oggi francamente sono concentrato sulle famose Kennedy Papers che Trump ha deciso di rivelare, e cioè i documenti segreti sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Cioè, capisci, noi stiamo a parlare dei pannolini. Grande. Francamente, la mozione d'ordine è approvata. E sentite il gol di Mertens, Napoli-Genoa. Rincorsa di Mertens, va lui col destro! Mertens! Indietreggia Perin, Mertens! Aggancio strepitoso, sinistro ancora meglio! Ancora Mertens, ancora lui, sinistro! Mertens per Kejekon, la palla entra, Mertens! Allora, aneddoto per chi anche non segue il calcio, ero andato a seguire la partita della Roma, a un certo punto Mertens prende la palla, sapete che è molto basso, è un giocatore straordinario perché è piccolo, dribbla, è un folletto, e si alza uno dalla tribuna Tevere, un signore anziano, e urla "A Chihuahua!". Ebbene, questo Chihuahua ieri ha fatto 3 gol e ha consegnato il primato a Napoli. È bello quando qualcuno trova la forza di ribaltare un presunto handicap e lo trasforma in un talento. Non lo ferma nessuno, caro Andrea, questo. No, ma il Napoli quest'anno sta esprimendo un calcio, ormai loro giocano a memoria, francamente molto bello da vedere, però è lunga ancora, arrivare fino a maggio. Insomma, io vedo anche una Roma in crescita, vedo un Inter inarrestabile, macina punti. Sì, ma inarrestabile soprattutto perché evidentemente hanno parlato con qualche stregone che li sta aiutando ad avere anche un po' di fortuna, la vogliamo qualche dire così? Stregone, sì, è possibile. Sì. 6:45, le strade in diretta, e torniamo anche con Alessandro Giuli per parlare della memoria e della retorica. Sempre spiazzanti noi. È immorale alzarsi a questo... Mattino. E già svegli. Uh! Già svegli. Devo dire, questa mattina, per esempio, qui, insomma, nei dintorni, ho fatto qualche difficoltà a trovare un bar aperto, no? C'è un'Italia a due... credo sei uscito alle 5. C'è un'Italia un po' a due velocità. C'è un'Italia che cammina, è un'Italia forse che, insomma, così, che se la prende un po' più comoda. Sono sveglio dalle 3:15 perché ho accompagnato mio figlio a lavorare, che iniziava presto anche lui questa mattina. Poi sono tornato a casa, ho fatto colazione e sono ripartito per andare a lavorare. Sono già sveglio perché mi aspettano 140 km di autostrada prima di arrivare in ufficio al lavoro. Però non viaggio mai da solo perché mi accompagna sempre il pensiero della donna che amo. Purtroppo lei non mi ama, però non importa, è bello lo stesso. Allora, mattina, o c'è il fritto misto o il bollito, perché sentiamo il fritto misto, cosa bolle in pentola? Deciditi, o è fritto o è bollito, Luca. No, volevo lasciare solo un messaggio a Giannino, che lui butta benzina sul fuoco delle pensioni, non perché ci crede, ma per prendere per i fondelli quei poveri operai che devono stare sul tetto a lavorare fino a 70 anni. È tutto quello il suo scopo. 02 30 22 4492, lasciate i vostri messaggi che sono, lo sentite che sono poesia? Con questo cacciatore indietro diventano poesia. Vado al lavoro accompagnato dalla mia amata, bellissimo, anche se è un pensiero, va bene. Andrea Purgatori, sei lì? Un eroe romantico pazzesco questo, va, fa 100 ogni giorno, 140 km, 120, pensando alla donna che ama, che però non lo ama. Cioè, vero. Ma merita un premio, ma merita un premio. Merita un premio, ma è l'energia del mondo. Sarebbe piaciuto a Goethe, a Schiller, ai grandi romantici dell'Ottocento, sì, che sono cresciuti su questo, sull'amore non ricambiato, sulla letteratura che cambia, certo, la storia. Allora abbiamo collegato anche Alessandro Giuli, che è meno romantico. Dove sei? Direttore. Buongiorno. Di Tempo. Io sono al bar sotto casa perché la donna che amo, riamato, sta dormendo, e quindi sono uscito col cane e sto qui sotto, cioè, perché mia figlia di 2 anni e mia moglie dormono, io non posso svegliarlo. Cioè sei lì col telefonino e col cane? Col cane, sì, spero che non mi tirino un secchio d'acqua dal palazzo qua sopra, insomma. Allora, sì, sono al bar. Grande polemica sui pannolini, ve lo dico, grande polemica sui pannolini. Pagare i pannolini, caro, caro Purgatori, è molto più importante dei Kennedy se non riesci a pagarli, e questa è la prima critica che ti prendi, ma non è che voleva dire. Sono un uomo antico, io mi appassiono sulle le carte segrete dell'omicidio di Kennedy e non sui pannolini che devo perfetto fare. Ma poi c'è anche la polemica con Dibba, di qualcuno dei 5 Stelle che dice: scusa Dibba, ma esistono i pannolini lavabili, risparmieresti molto. E quindi ogni cosa diventa immediatamente simbolo e motivo di divisione. Ma noi siamo qui per discutere di questa celebrazione. Io so che Giulia ha una tesi diversa dalla mia. Penso che un po' di Anna Frank, anche se qualche demente ha fischiato, anche se qualcuno dice chi è questa cosa, anche se qualcuno dice vabbè, ma tante regole dà fastidio, un po' di Anna Frank che è andata in circolo non fa male. Ieri un grande letterato israeliano diceva: vederla con la maglia della Roma mi ha fatta simpatia, perché mi sono reso conto che quel simbolo, quel sorriso è superiore a qualunque trasfigurazione e manipolazione. E sono d'accordo con lui. Secondo me Anna Frank col suo sorriso ha bucato. Vado? Vai. Ha bucato come un'opera d'arte di Andy Warhol. Cioè è stata messa. Però ha bucato, sei d'accordo? Sì, ho capito, ma è stata, come dire, più che altro commercializzata. Cioè, secondo me, quando tu dici siamo tutti Anna Frank, poi nessuno è Anna Frank. Ha bucato perché improvvisamente è diventato un fenomeno massivo, un fenomeno di massa. Però guardate che l'immagine di Icardi che legge o prova a leggere il diario di Anna Frank brandendolo come una bistecca fiorentina in mezzo al campo non è poi così edificante per il culto della memoria. È la copertina, sì, è la foto di copertina del Sole, della Gazzetta dello Sport. Capito, Cioè, tu vedi quello che tira calcio a un pallone, egregiamente purtroppo per noi, che brandisce un libro come una cosa aliena. E poi vedi Repubblica che mette in serie tutte le fotine di Anna Frank con le magliette delle varie squadre di calcio e dice, beh, è un ready made meraviglioso, questo è Andy Warhol, è l'Olocausto come opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità seriale. Tutto questo a chi giova? Secondo me non giova a diciamo una presa di coscienza di quello che è stato, non dà la giusta misura della, diciamo, dell'abiezione ovviamente dei tifosi, di quei pochi tifosi, pochi ma insomma rappresentativi tifosi della Lazio che hanno messo quegli adesivi orrendi, e tutto sommato banalizza un po', perché io continuo a sostenere che nessuno di noi è Anna Frank, perché nessuno viene a cercarci dentro casa, nelle nostre soffitte, per sterminarci. Andrea, quindi l'obiezione è: nessuno di noi è Anna Frank, nessuno di noi è parigino, nessuno di noi è Charlie, come si diceva con un altro slogan. Cioè lo slogan "io sono quello che non sono", la prima volta buca, la seconda volta diventa banale. Sei d'accordo? Tanto per cominciare, stiamo citando senza rendercene conto proprio John Kennedy, che disse "siamo tutti berlinesi" nel 1962-63, se ve lo ricordate. Come una no? Frase storica, discorso una frase al muro di Berlino. Al muro, certamente. Poi io sono d'accordo, ma perché nel mio, diciamo, piccolo umile DNA ho il ricordo di una scuola media dove il diario di Anna Frank e i libri di Primo Levi erano dei testi che si dovevano leggere e che effettivamente facevano venire i brividi. Oggi credo che questo non accada più, e francamente veder rispuntare Anna Frank sulle magliette di calcio, anche qui al di là del gesto orribile che è stato fatto da quei tifosi della Lazio, è qualcosa che non lo so, mi lascia molto perplesso. È una sorta di, come dire, di mercificazione di qualcosa che non può essere usato e raccontato in questo modo, perché francamente è ben altro, purtroppo. Ebbene, penso che abbiamo dato tutti gli spunti. Giulio, la tua ultima sentenza con cane e telefonino a fianco per i posteri, questa. Qual è? Sentiamo. Tra quegli adesivi ce n'era uno, nessuno l'ha notato, strano, ce n'era uno con scritto "romanista Aronne Piperno". Ora voi sapete chi è Aronne Piperno nell'immaginario di questi che hanno messo gli adesivi? È l'epanista del Marchese del Grillo, quello che nel Marchese del Grillo viene, sì, ingaggiato dal Marchese, gli rifà tutta la falegnameria e poi non viene pagato, con la seguente frase, più o meno, cito a memoria: "Tu hai ucciso il nostro Signore Gesù Cristo, permetti che sono ancora un po' incazzato". E questo, diciamo, dà la misura del disprezzo per il povero ebreo del ghetto che fa il falegname. Dopodiché però il Marchese del Grillo suona le campane a lutto, perché dice: "Morta la giustizia, perché il prepotente se l'è presa col più debole". Ecco, questa cosa mi sembra che esprima bene lo spirito e l'ignoranza di quelli che hanno compiuto questo gesto, e però anche la pigrizia di chi non l'ha notato, per cogliere, diciamo, realmente l'intenzione di fare una goliardata orrenda da parte di quei quattro disgraziati. Allora, grazie a due menti illuminate del giornalismo italiano con idee diverse, ma questo è il bello. Ci fermiamo per GR Estate in diretta e poi torniamo con la rassegna e anche un piccolo retroscena che nessuno ha notato su questa storia dell'adesivo. Sì, ciao, a dopo. Baleo, impara a parlare e impara alla grammatica prima di leggere i giornali.